get your paper. I'm here to shout it. Read all about it. E buongiorno a tutti. Benvenuti alla prima puntata della rassegna stampa di Radio Wombat. E vi diamo un buongiorno, anche se quasi buon appetito. E nella prossima ora potrete sentire un po' di estratti dalla stampa internazionale e locale scelta dai vostri wombati preferiti. Direi di andare subito con i titoli di oggi. Corte europea accoglie ricorso contro l'Italia per l'espulsione di sudanesi. Gli Ikebiri, Nigeria, chiedono a Eni 2 milioni di danni per fuoriuscita di petrolio nel 2010. Docenti in sciopero contro la sentenza del Consiglio di Stato. Manifestazione a Bilbao per chiedere rispetto per i detenuti politici. Soldati italiani in Africa. Facebook rimuove account di molti utenti su indicazioni di Israele e USA. Israele, Refusnik, non saremo parte dell'occupazione. Francia, ingiustizia è fatta. Un giornalista in incognito ad Amazon. E lo speciale approfondimento di oggi: quando Orwell incontra il cane di Pavlov, il social credit system in Cina. E ecco il gong di avvio di questa rassegna stampa. Partiamo con il terzo titolo detto, docenti in sciopero contro la sentenza del Consiglio di Stato, un articolo preso da liberastampa.net. Si affronta appunto la questione che ha portato allo sciopero di lunedì scorso, di lunedì 8, sciopero che ha visto molte città, in particolar modo la capitale, Roma, con molti docenti in piazza, e, per la questione dell'esclusione di molti docenti che già spesso di ruolo si sono visti togliere il lavoro, visto che c'è una sentenza dello Stato, del Consiglio di Stato, che leva l'abilitazione a chi ha fatto solo le magistrali. Vi racconto un po' la storia, diciamo l'antefatto. Allora, la lunga vicenda inizia con la legge numero 296 del 27 dicembre del 2006, la cosiddetta Rivoluzione Fioroni, che era il ministro dell'allora, del secondo governo Prodi, il ministro dell'insegnamento, dell'istruzione. In virtù di questo decreto le graduatorie permanenti per l'insegnamento vengono trasformate in GAE, cioè graduatorie a esaurimento, quindi si chiama a seconda del punteggio che si possiede, graduatorie che tuttora esistono e che però andranno peraltro a sparire. La questione scuola la riprenderemo probabilmente anche in altri rassegnamenti, perché è una situazione veramente confusionaria. Comunque, trasformate le GAE, alle quali possono avere accesso tutti gli abilitanti all'insegnamento, compresi i laureati in scienze della formazione primaria e i laureati delle SIS, che sono le scuole di specializzazione dell'insegnamento secondario. Vengono però in questo decreto esclusi da questa normativa tutti i diplomati magistrali. Vi ricordiamo, magistrali erano un tipo di scuola superiore. Quindi chi si era diplomato, quindi aveva fatto la maturità nelle scuole magistrali, era stato escluso da queste graduatorie nella normativa della legge numero 296 del 2006. Vengono però esclusi da questa normativa tutti i diplomati magistrali, dicevamo, nonostante il Ministero dell'Istruzione avesse riconosciuto il 3 marzo del 1997, l'allora ministro Luigi Berlinguer, il valore abilitante dell'insegnamento di questa tipologia di diploma. Tutti questi docenti vengono dunque esclusi dalle graduatorie a esaurimento e retrocessi nella terza fascia delle graduatorie di istituto. La terza fascia è quella che permette di fare sostituzioni di breve durata, quindi diciamo massimo qualche mese. Non si possono fare sostituzioni di lunga durata, quindi magari annuali, sostituire permessi, malattie di lunga durata o aspettative. Di fatto quindi vengono condannati alla precarietà a vita, senza alcuna possibilità di entrare di ruolo questa tipologia di insegnanti. A questo punto è iniziata un'ondata senza precedenti di ricorsi promossi da migliaia di docenti che si sono visti privati appunto dei loro diritti contro il provvedimento del Ministero Fioroni di cui parlavamo. Quest'ondata viene però fermata dal parere numero 3813 dell'11 settembre 2013, con il quale il Consiglio di Stato appunto riconosce tutti i diplomati magistrali entro l'anno 2001-2002 in possesso di un titolo sufficiente all'insegnamento. Viene dunque accolta, insomma, con gioia da tutti questi docenti la loro ufficializzazione nel poter entrare nelle graduatorie e raggiungere l'agognato ruolo. Appare infatti sulla Gazzetta Ufficiale del 15 maggio del 2014 questa notizia, con il quale il Presidente della Repubblica, all'allora Giorgio Napolitano, che conferma questa disposizione del Consiglio di Stato, garantendo quindi ai diplomati magistrali il passaggio nella seconda fascia delle graduatorie di istituto. La seconda fascia quindi è quella, a differenza della terza, che ti permette di fare sostituzioni di lunga durata. Proprio in virtù di questo importante riconoscimento iniziano i ricorsi degli insegnamenti presso i tribunali del lavoro e il TAR, che è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, per chiedere di essere inseriti nelle GAE, avendo così anche la possibilità di ottenere l'agognato posto di ruolo. Nel 2015, però, a seguito della vittoria di molti ricorsi, 2.000 precari vengono finalmente inseriti nella graduatoria e successivamente molti altri vengono ammessi come riserva, avendo però la possibilità di stipulare contratti a tempo indeterminato, quindi sembrerebbe una vittoria. No, assolutamente no, perché il mondo della scuola è imprevedibile. Si tratta però soltanto di un'illusione. Nel dicembre 2017, quindi veramente poco tempo fa, infatti il Consiglio di Stato, a seguito dell'adunanza plenaria del mese precedente, decide di tornare inspiegabilmente sui suoi passi, non riconoscendo più il titolo di diploma magistrale sufficiente per l'inserimento nelle GAE, aprendo così la possibilità al più grande terremoto che la scuola italiana abbia mai visto. A seguito di queste sentenze, quasi 50.000 aspiranti docenti, alcuni dei quali con contratto a tempo indeterminato e a chi hanno già superato un anno di prova, quindi persone stavano lavorando, e che avevano un contratto, vedono infatti il proprio futuro lavorativo del tutto incerto e hanno così deciso di scendere in piazza il passato 8 gennaio in difesa dei diritti di cui sono stati privati. Il MIUR in tutto questo chiaramente si è dovuto esprimere, lo sciopero generale ha sortito alcuni effetti, anche se le parti in causa, quindi il comparto scuola, i sindacati e il MIUR, sono ancora distanti, le posizioni sono distanti. La sentenza non avrà alcun effetto immediato, ha assicurato il ministro dell'istruzione Fedeli, la ministra Valeria Fedeli, commentando lo stato di agitazione degli insegnanti precari, poiché dobbiamo aspettare il parere dell'avvocatura di Stato, dice sempre la ministra. Quando avremo tutte le risposte, convocheremo le parti interessate e cercheremo di trovare delle soluzioni. Il MIUR, ha aggiunto la ministra, si muove con grande equilibrio, con grande attenzione e con una scelta già fatta, continuità educativa in questo anno scolastico. Non resta dunque che attendere, nel frattempo però rimane soltanto una cosa da fare, un appello al buonsenso delle forze politiche per far sì che i diritti di migliaia di lavoratori vengano una volta per tutte tutelati. Il sistema della scuola, e qui concludo questo primo articolo, è in una situazione veramente, veramente precaria e confusionaria. Le nuove norme della buona scuola, che hanno effetti sia sugli studenti, come abbiamo visto riguardo a tutta l'alternanza scuola-lavoro, ma ha un grande effetto anche sugli insegnanti. Regole che cambiano ogni giorno hanno portato ad avere dei problemi che il MIUR non riesce ad affrontare perché si deve tappare quelle falle fatte negli anni precedenti. Quindi questo articolo ci porta in auge il problema degli insegnanti. Molti insegnanti, l'insegnamento di per sé è precario, in particolar modo questa ingiustizia sociale per cui chi già stava lavorando viene licenziato, insomma, porta sicuramente gli insegnanti a lottare ancora con più forza. Speriamo in un'unione anche con gli studenti e con i lavoratori in generale per una lotta più proficua. E vi lascio al primo pezzo della giornata e poi continuiamo con la rassegna stampa del Wombat. Tu no tienes la culpa, mi amor, que el mundo sea tan feo. Tiene la culpa, mi amor, de tanto tiroteo. Va por la calle llorando, lágrima de oro. Va por la calle brotando, lágrima de tiene la culpa, mi amor, de tanto cachondeo. Tú no tiene la culpa, mi amor, vámonos de jaleo. Ay, por la calle llorando, lágrima de oro. Ay, por la calle brotando, lágrima de oro. Amigos míos, acérquense. Llegó el cancodrilo y super chango, toda la vaina de Maracaibo. En este mundo hay mucha confusión, suenan los tambores de la rebelión. Accoglie ricorso contro Italia per espulsione di sudanesi. 11 gennaio 2018. Non tutti i tribunali tollerano il colonialismo fascistoide dell'Italia oggi e il suo disprezzo per le regole umanitarie dell'accoglienza. Ma sono necessarie impegno, costanza e consapevolezza dei diritti della persona umana per ottenere giustizia. Sono stati dichiarati tutti ammissibili i ricorsi presentati dai cittadini sudanesi contro il governo italiano per il respingimento collettivo che, il 24 agosto 2016, ha dato esecuzione all'accordo tra l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, la Corte Europea per i Diritti dell'Uomo e le Libertà Fondamentali, CEDU, ha comunicato formalmente i ricorsi al governo italiano e ha posto precisi quesiti volti a conoscere le modalità dell'espulsione e se siano stati rispettati i diritti e le garanzie previste dalla Convenzione europea. I ricorsi, ricorda la nota, sono stati tutti depositati da avvocati dell'ASGI. I cittadini sudanesi furono oggetto di una vera e propria retata a Ventimiglia. Alcuni furono trasportati in condizioni disumane e poi rinchiusi illegittimamente nell'hotspot di Taranto. Quindi vi fu il tentativo di rappresentanti dell'ASGI ed ARCI che tra il 19 e il 22 dicembre 2016 si recarono a Khartoum grazie al supporto di una delegazione di parlamentari europei del gruppo della sinistra europea. Tutti coloro che non furono rimpatriati hanno ottenuto il riconoscimento della protezione internazionale in Italia in quanto soggetti a persecuzioni e discriminazioni nel paese da cui provenivano. I ricorsi hanno denunciato la violazione di diverse norme della Convenzione EDO e della Convenzione di Ginevra. Il governo italiano, entro il 30 marzo 2018, dovrà fornire una risposta al proprio operato dinanzi al CEDU. Gli Ikebiri chiedono all'ENI 2 milioni di euro di danni. Il 4 maggio è stato notificato un atto di citazione nei confronti di ENI dalla comunità di Ikebiri, nello stato di Bayelsa, in Nigeria. La comunità, sostenuta dall'associazione Friends of the Earth Europe e da Environment Rights Action, FOE Nigeria, ha fatto causa alla compagnia petrolifera Eni, che in Nigeria opera attraverso la sussidiaria Nigerian Agip Oil Company, per una fuoriuscita di petrolio risalente al 2010. Il 5 aprile 2010, un oleodotto gestito dalla NAOC è esploso a 250 metri da un torrente a nord della comunità Ikebiri. La fuoriuscita di petrolio si è riversata nel torrente e nell'ambiente circostante, danneggiando il sostentamento della comunità locale. La comunità chiede 2 milioni di euro a titolo di risarcimento, ma soprattutto la bonifica dell'area devastata dall'incidente. Anni di ricerche da parte di Amnesty International nel delta del Niger hanno messo in rilievo l'impatto delle operazioni condotte da Eni e dalle altre compagnie petrolifere, tra cui violazioni del diritto e a una qualità della vita adeguata, del diritto all'acqua, del diritto alla salute e mancato accesso alla giustizia da parte della popolazione. Secondo il programma sull'ambiente delle Nazioni Unite, la completa bonifica del territorio dell'Ogoniland richiederà oltre 30 anni. Nel 2009 Amnesty International ha condotto campagne per chiedere a Eni e altre aziende petrolifere che operano in Nigeria di rendere note le informazioni sull'impatto delle operazioni sull'ambiente e sui diritti umani e di attuare la due diligence nelle loro operazioni per identificare, prevenire e mitigare rischi di violazioni dei diritti fondamentali. Amnesty International segue con attenzione il processo, anche con riguardo all'affermazione delle eventuali responsabilità dell'azienda madre per le azioni commesse dalla sua controllata in Nigeria. Articolo preso da Edinburgh, tratto da nigrizia.it. That you're gonna love me, my heart is full of misery. Continuiamo con questa puntata di rassegna stampa. Adesso una sezione di approfondimento sugli esteri. Partiamo con un paio di brevi notizie per arrivare poi a qualcosa di un po' più corposo. Ci eravamo domandati in tanto anticipo all'inizio di questa trasmissione se era il caso o meno di seguire dei filoni tematici approfondendoli e sviscerandoli. Abbiamo preferito essere un po' dappertutto con tanti piccoli argomenti da varie parti del mondo. E sceglieremo poi nelle prossime puntate, nelle prossime edizioni di questa rassegna stampa se approfondire alcune tematiche. Come abbiamo detto, appunto, iniziamo con questi Con queste prime notizie, una che risale al 13 gennaio scorso, a 2 giorni fa, quando a Bilbao 100 persone hanno manifestato sotto la pioggia per il rispetto dei diritti dei detenuti politici e per richiedere il trasferimento dei prigionieri baschi che adesso stanno nel sud della Spagna, dislocati in vari carceri, di nuovo nelle carceri dei Paesi Baschi. Questa notizia non ha pressoché avuto nessuna eco, anzi non ha avuto nessuna eco in lingua italiana, non esiste traccia, e non di meno ci piace qui darne conto, considerando che 100.000 persone sotto una pioggia battente a fronte di 3 milioni di abitanti dei Paesi Baschi sono decisamente un grande numero. Ne è il primo anno che inizia con questo tipo di manifestazione, già il 2017 aveva visto questo tipo di partecipazione da parte dei compagni baschi. Qualche numero ancora. Siamo con l'Italia, che sta aumentando il proprio contingente militare all'estero, in particolare in Africa. Diamo qualche numero. 120 nuovi soldati in Niger, che presto diventeranno 470 nuovi soldati in Niger. Altri 100 in Libia, dove già ne sono stanziati 700. 60 in Tunisia, e poi ce ne sono già circa 1000 in Libano. Ripeto, 120 soldati in Niger, che presto diventeranno 470, altri 100 in Libia, dove già ce ne sono 700, e 60 in Tunisia. Altri 1000 e più sono già stanziati in Libano. L'Italia sta rivedendo la presenza nelle missioni militari all'estero e soprattutto nell'area mediterranea. E per far fronte a questa nuova revisione strategica verranno anche ridimensionati i soldati impiegati in Afghanistan e in Iraq. Diamo intanto conto della notizia, sono diversi gli approfondimenti su questo, li seguiremo nelle prossime puntate, intanto ci piaceva di annunciare questi brutti numeri. Andiamo un po' con la lettura di qualche articolo. Questo che stiamo per leggere è stato scritto dal giornalista Glyn Greenwald su TheIntercept.com, un giornale online fondato dallo stesso un paio di anni fa. L'articolo è in inglese, ma abbiamo fatto una breve traduzione, ve ne proponiamo l'inizio. Il titolo dell'articolo è: Facebook rivela che sta rimuovendo account di molti utenti su indicazione di USA e Israele. L'articolo inizia così. Già a settembre 2016 avevamo evidenziato che alcuni rappresentanti della piattaforma Facebook stavano incontrando alcuni delegati del governo israeliano per stabilire la cancellazione di un numero di account palestinesi accusati di sobillazione. I meeting erano stati richiesti e presieduti dal ministro della giustizia Ayelet Shaked, membro della Knesset per il partito di estrema destra sionista The Jewish Home, uno dei politici israeliani fra i più estremisti ed autoritari, sostenitrice dell'occupazione israeliana e a favore della crescita delle colonie nella zona dei territori occupati. In linea con l'arroganza che lo contraddistingue e con la quale si muove negli ultimi anni, il governo di Israele minacciò all'epoca la piattaforma di social media. Se avesse volontariamente mancato di rispettare l'ordine di rimozione degli account, non rispettando le leggi che regolamentano Facebook ed altre piattaforme digitali, quest'ultima sarebbe stata severamente multata o avrebbe perfino rischiato di essere sospesa nel paese. Gli effetti prevedibili di questi incontri ora sono chiari e anche ben documentati. Da quel momento, su Facebook, si è scatenata la furia censoria nei confronti di tutti quegli attivisti palestinesi che protestano contro l'illegale e pluridecennale occupazione dei loro territori, diretta e determinata dalla politica israeliana. Per dirla tutta, i politici israeliani si sono anche vantati pubblicamente dell'obbedienza dimostrata da Facebook dopo aver ricevuto le richieste di censura. Questa la dichiarazione media. Il ministro della giustizia israeliano Ayelet Shaked, all'inizio del mese scorso, subito dopo la diffusione della notizia dell'accordo fra il governo israeliano e Facebook, ha dichiarato che nei 4 mesi precedenti Tel Aviv aveva già sottoposto 158 richieste di sospensione al gigante dei social media, domandando esplicitamente di rimuovere il contenuto dei post che riteneva essere potenzialmente sobillatorio, che poteva incitare alla ribellione. Il ministro afferma che Facebook ha garantito che sarebbero state evase il 95% delle richieste. E così è stato. Questa era appunto la dichiarazione ai media, ed è tutto vero. La sottomissione dei dettami di Israele sembra essere veramente invalicabile, troppo difficile da superare. Come ha avuto modo di scrivere il New York Times lo scorso anno, le agenzie di sicurezza israeliane monitorano Facebook e trasmettono al governo i post che loro considerano di incitamento alla ribellione, pubblicati dalla piattaforma dei social media. La compagnia ha reagito semplicemente rimuovendo la maggior parte di quei post. Ciò che rende questo tipo di censura particolarmente significativo è che il 96% dei palestinesi dichiara che l'uso che fanno di Facebook è esclusivamente per tenersi ben informati. Così facendo, Israele ha accesso e riesce a controllare un forum chiave per la comunicazione dei palestinesi. The Independent, nelle ultime settimane, ha seguito gli incontri Facebook-Governo di Israele e riportava che il Palestinian Inform Center, organizzazione di informazione indipendente palestinese operante dal 1997, riferiva che almeno 10 dei loro account relativi ad altrettanti amministratori di pagine Facebook in lingua araba o inglese, seguite da più di 2 milioni di persone, erano stati sospesi, 7 dei quali in modo definitivo, ed affermano che questo è il risultato delle nuove misure messe in atto sulla scia di quello che è scaturito proprio dagli incontri Israele-Facebook. A marzo, la piattaforma di social media ha chiuso, anche se per breve tempo, la pagina di Fatah, il partito politico palestinese, che era seguita da milioni di utenti, dichiaratamente a causa di un post in cui, in una vecchia foto, era ritratto l'ex leader Yasser Arafat che imbracciava un fucile. L'articolo poi è molto lungo, continua per pagine con altri esempi su quanto sta avvenendo adesso fra i governi USA, Israele e la militanza palestinese, e fino alla conclusione: è duro accettare che la visione ideale di internet che ciascuno di noi ha in sé l'attribuzione del potere nelle mani di un governo USA o di uno israeliano o di altri poteri mondiali idonea a decidere chi ha il diritto di essere ascoltato e chi si merita di essere soppresso. Guitar playing right here. Yeah, mama don't allow no guitar playing right here. I don't care what mama don't allow. I play my guitar anyhow. Mama don't allow no guitar playing right here. Hey, mama don't allow no bass in this place. Yeah, mama don't allow no bass in this place. I don't care what mama don't allow. I play my bass anyhow. Mama don't allow no bass in this place. Like mama don't lie, I'm gonna play my drums in the house. All playing at the same time. Mama don't lie, it's all playing at the same time. I don't care what mama don't lie, we're all gonna play all at the same time anyhow. Mama don't lie, it's all playing at the same time. Eravamo su Israele e continuiamo da dove ci eravamo interrotti con un articolo che è stato pubblicato dalla NENA News, che sarebbe la Near East News Agency, l'agenzia di stampa del Vicino Oriente, che nasce nel 2010 da un progetto collettivo di giornalisti e ricercatori che vivono nell'area in Italia con l'obiettivo di diffondere insomma un'informazione indipendente su questa zona del mondo. Da Nena News è stata seguita questa manifestazione dei Refusnik. Non saremo parte dell'occupazione, la dichiarazione è il titolo a cui si può ricercare questa notizia, che propone anche una serie di video di questi presidi di militanti palestinesi, di scrittori, attivisti. E l'articolo parla di 63, anzi lo leggiamo. Roma. 63 giovani israeliani hanno detto no al servizio militare obbligatorio. A dare notizie è stato oggi il quotidiano Yediot Aronot, in una lettera inviata al premier Benjamin Netanyahu, al ministro della difesa Lieberman, a quello dell'istruzione Bennett e al capo di stato maggiore Eisenkot. Le potenziali nuove reclute hanno affermato che l'esercito implementa la politica razzista del governo, che viola i diritti umani fondamentali e applica nello stesso territorio una legge per gli israeliani e un'altra per i palestinesi. Pertanto, scrivono i firmatari, abbiamo deciso che non prenderemo parte all'occupazione e alla repressione del popolo palestinese, che separa gli esseri umani in due campi ostili. Da 50 anni la situazione temporanea va avanti e non ne saremo complici. Un popolo intero ai due lati della linea verde è sotto un'istigazione istituzionalizzata, si legge ancora nel testo. Noi giovani, in età di arruolamento, provenienti da zone diverse del paese e da background sociali differenti, rifiutiamo di credere al sistema di incitamento e di partecipazione al braccio della repressione e dell'occupazione del governo. Tra i promotori dell'iniziativa c'è Ilal Grami, studente degli USU e degli SUV Yodefet. A Yediot Aronot, Grami ha detto che non teme le conseguenze pubbliche per il suo gesto. La pubblicazione di questa lettera è molto importante, molto più importante della reazione che riceverò dalle persone che trovano difficile sentire queste idee. Un altro dei firmatari, il ventenne Hellman del kibbutz Hoagen, è già in carcere dopo che ha scelto di non arruolarsi. Rifiuteremo di servire nell'esercito per via del nostro impegno alla pace e perché siamo convinti che esista una realtà che possiamo creare insieme. Una realtà in cui sono invitati a partecipare anche gli altri loro coetanei. Proprio per questo motivo, nelle prossime settimane, i firmatari della lettera del rifiuto si recheranno in alcuni centri di arruolamento del paese per provare a convincere altri giovani a non vestire l'uniforme militare. Ci piaceva, insomma, dare questa notizia da Israele che, come abbiamo visto da un punto di vista istituzionale, traffica con Facebook per bloccare ogni forma di dissenso, dall'altra vive un attivismo di base interessante e pronto a ogni prezzo, pure al carcere, come questo, di chi si rifiuta di andare a sparare. Francia, ingiustizia è fatta. Questo è il titolo di un articolo a firma Giustiniano Rossi, pubblicato su Contropiano, che andiamo a leggere. Il 26 ottobre 2014, Rémi Fraisse, militante ambientalista di 21 anni, viene mortalmente colpito da una granata lanciata da un gendarme nel corso di una manifestazione contro la diga di Sivens, regione Occitania, Francia sud-occidentale. Rémi è uno dei tanti che si oppongono a questo progetto inutile, dannoso ed imposto. La sua non è una morte accidentale, ma la conseguenza di una strategia di estrema tensione e violenza attuata dallo Stato francese, allora guidato da François Hollande, per spezzare la forza della mobilitazione. L'8 gennaio scorso i giudici istruttori del Tribunale di Tolosa hanno emesso il loro verdetto, non luogo a procedere nei confronti del gendarme responsabile. Si tratta di una sentenza doppiamente scandalosa, perché da un lato riprende la teoria tristemente nota del responsabile ma non colpevole. Secondo i magistrati, infatti, colui che ha tirato la granata non ha nulla da rimproverarsi, avendo agito, come del resto i suoi colleghi, in maniera proporzionata. Dall'altro lato, questo giudizio libera da ogni responsabilità il ministro degli interni, istanza politica all'origine delle decisioni che sono costate la vita al giovanissimo manifestante. L'attuale ministro degli interni è l'ex socialista e sindaco di Lyon, Gérard Colomb, sostenitore dalla prima ora di Emmanuel Macron. Sua la minaccia di evacuare con la forza la zona occupata da anni da un vasto movimento deciso ad opporsi ad un'altra grande infrastruttura, il progettato aeroporto di Notre-Dame-des-Landes a Nantes, utile solo alle imprese aggiudicatrici dei lavori, i soliti Bouygues, Vinci ed altri, titolari di una concessione di sfruttamento per i prossimi 55 anni. Un inutile doppione che cancellerebbe 1.650 ettari di terreno agricolo. Si tratta di una decisione preoccupante, vero assegno in bianco elargito alle forze incaricate della repressione. La sentenza dei giudici istruttori dimostra ancora una volta che, quando si tratta di garantire l'impunità a poliziotti e gendarmi, la giustizia mostra tutta la comprensione che nega ai poveri, ai militanti, agli esclusi. E infine una nota di colore che mi piace a me di raccontare. È stata inaugurata a Budapest la prima statua al mondo dedicata a Bud Spencer. È stato realizzato questo bronzo per il vecchio Bud, in cui viene raffigurato Bud Spencer con gli occhi a fessura, come era, che si porta in spalla una sella da cavallo, vestito un po' da cowboy. E sotto è in ungherese scritta la citazione proferita da Terence Hill il giorno del suo funerale: "Noi non abbiamo mai litigato". Hanno partecipato i figli di Bud Spencer, lo stesso Terence Hill, e a noi, insomma, a me almeno, mi piaceva di raccontare questa statua per questo antieroe nostrano, che pure se è stato un cazzo di destra negli ultimi anni di vita, insomma, ancora quella carica da. Tirava destri da giovane. Io metterei adesso una canzone e poi magari torniamo con un paio di approfondimenti, che sono le parti in cui abbiamo scelto di dilungarci un attimo per questa puntata di oggi. Up to go with the wall, the hurl, a stick in the shinty bowl, the brick, the brack, the crack, and all. Let's call it an Irish pub. Caffrey's hard, Kilkenny and Pop, the Guinness pot and the cabbage crap, the idle wannabe paddy trap. We'll call it an Irish pub. While all be fucked to spit upon the holy book, the only crack you'll get is a slap in the ear. While all be fucked to laugh and burst your filthy mug, if you draw one more shamrock in me beer. Spread upon the holy book, the only crack you get is a slap in the ear. Where are big folks? You'll often burst your filthy mug. If you drop one more shot, I'll give me beer. To spit upon the holy book, the only crack you'll get is a slap in the ear. Well, I'll be fucked, you'll love the first, you filthy monk. If you drop one more shot, I'll give me beer. Carry on, kiss me, I'm Irish. Molly Malone, a bounce, a slant, a punk, my home. We got us an Irish pub. Despite the punches, trick the willows, strike me up the rakes, and Malone, a lift, he never ran so shallow. We got us an Irish pub. Well, I'll be fucked to swear upon the holy book. The only crack you get is a slap in the ear. Well, I'll be fucked to love the first, you filthy mug. If you drop one more shot, I'll give me beer. Allora, eccoci qua con come primo approfondimento della prima puntata della rassegna stampa andiamo in Cina e parliamo del Social Credit System, che è una roba che interesserà quantomeno tutti i cittadini cinesi, cioè 1,3 miliardi di persone. Un processo che è partito nel 2014, quando il Consiglio di Stato cinese presentò un documento, il cui titolo era tradotto in inglese è questo, Planning Outline for the Construction of a Social Credit System. Che cos'è? Fondamentalmente siamo già abituati con i big data, insomma all'analisi dei dati creati tramite Facebook, Google, tutto il resto, e di uno studio approfondito da parte di terzi per capire un po' e per gestire un po' gli utenti e quant'altro. La Cina è andata oltre, cercando di fondamentalmente fare monitorare e valutare, esatto, grazie, e valutare tutti i singoli cittadini in Cina. Come funziona? Fondamentalmente aggiungono una valutazione a tutti i dati che vengono dati positivi o negativi. Queste valutazioni vanno messe insieme, vanno a formare un singolo numero dato da un algoritmo che andrà a caratterizzare il punteggio di cittadinanza, il citizen score, che sarà pubblico e che influenzerà la vita delle persone. Sarà un sistema funzionale per misurare il grado di fiducia e creare una cultura della sincerità. Questo è quello che sostiene il governo cinese. E rafforzerà, dicono, la sincerità degli affari governativi, commerciali e sociali e la costruzione di una credibilità giuridica. Questa struttura è stata fatta iniziata, per ora tutti quelli che hanno preso parte sono volontari, ma dal 2020 sarà obbligatoria per tutte le persone legali, personalità giuridiche, cioè per tutte le persone e per tutte le compagnie che avranno un ruolo in Cina. Per adesso, visto che hanno iniziato con solo dei volontari, hanno adottato un approccio watch and learn, cioè stanno a vedere un po' come va. Tutta questa gestione dei dati è stata affidata sono state date 8 licenze a delle compagnie private per studiare l'algoritmo e raccogliere i dati di prova. Sono curiosi, ovviamente, è curioso vedere quali sono queste aziende. La prima è la China Rapid Finance, che è la detentrice di Tencent, che è il Facebook cinese, e WeChat, che è il WhatsApp cinese, quindi un sacco di dati per loro. Poi la Sesame Credit, che fa parte della Ant Financial Service Group, che è fondamentalmente Alibaba, che è l'Amazon orientale, una roba potentissima, cioè insomma che muove come Amazon un sacco di soldi, un sacco di interessi, e al suo interno questa Ant Financial Service Group ha un dipartimento che dà prodotti assicurativi e prestiti per piccole e medie imprese, e soprattutto Alipay, che sarebbe una piattaforma di pagamento usata anche come carta di credito, cioè per pagare il ristorante e cose di questo genere. Poi c'è l'Uber cinese, che è Didi Chuxing, e il Tinder cinese, che è Baie. Come funzionerà praticamente questo Social Credit System? Funzionerà così: ci sarà un punteggio che va dai 350 a 950, dato da questo algoritmo che è completamente, per ora è segreto e rimarrà segreto, che tira fuori un numero singolo, che è il tuo punteggio da cittadino. E quali sono i valori, insomma, che cambiano questo numero? Sono diversi. La prima è la storia creditizia, cioè tutta la tua storia di pagamenti, ritardi nei pagamenti, inadempienze, eccetera. Poi la capacità dell'utente di adempiere i propri contratti, quindi tutte le volte che non adempi un tuo contratto di lavoro o qualsiasi cosa sia, o con un sistema creditizio e roba del genere, viene segnalato, e questa cosa qua avrà un'influenza sul tuo punteggio. Poi ci sono le caratteristiche personali, cioè semplicemente la verifica del tuo indirizzo, del numero di telefono, cioè se tu inserisci informazioni reali che ti rispecchiano. E poi una delle più interessanti dal punto di vista, insomma, etico e tutto il resto, che alimenterà sicuramente varie discussioni, è il behavior and preference, cioè il comportamento e le preferenze. Ora, Alibaba, che è come fa anche Amazon, fra l'altro, ha ammesso di giudicare e di fare studi in base a cosa viene comprato dagli utenti. Ad esempio, se si nota che una persona compra spesso pannolini, si penserà che sarà un genitore e che sarà anche un buon genitore in quanto compra tanti pannolini per suo figlio. Quindi è curioso anche come questo algoritmo farà anche un po' cioè se li vedrà un po' come se fosse una sua cartina tornasole, tutti i dati, e gli darà un senso per poi tradurlo in variazione del numero di cittadinanza, insomma. E poi c'è un'altra che anche questa è molto assurda, che è sulle amicizie, fondamentalmente sulle relazioni che hai con gli altri cittadini. Ora, Sesame Credit dice che lo scopo sarà che tu avrai positività, cioè aumenterà il tuo numero, sarai migliore, se spredderai un po', se nei tuoi commenti online, insomma, nella tua cerca di amicizie, sprizzi energia positiva, che sarebbe tipo se mandi messaggi carini, oppure pieni di elogi per il governo e per l'economia, è stato detto questo fondamentalmente. Al momento però non è previsto nessun demerito per i commenti negativi, al momento. Alibaba ha fatto questa dichiarazione. Ora, dal 2020 sarà obbligatorio per tutti e non è sicuro per ora che le compagnie private che sono quelle che ho elencato prima, che stanno facendo le prove e raccogliendo i dati, saranno effettivamente all'opera dentro questa cosa qua, anche se probabilmente lo saranno, visto che avranno in mano una quantità di dati esorbitanti praticamente funzioneranno da spie per il governo, fondamentalmente sui cittadini. È stato fatto solamente per volontari, è già partito nel 2015-2016, e ci sono stati un sacco di volontari. E questi volontari perché si sono presentati per fare questa cosa qui? Perché a seconda del tuo numero tu avrai delle facilitazioni. Ora, per esempio, quando supererai il 600 di punteggio, ti verranno dati 5.000 yen, che sarebbero 565 euro, da spendere online, da spendere per comprare la roba. Poi andando in su a 650 potrai affittare per esempio una macchina senza dare nessun deposito, oppure avrai la priorità nel check-in all'aeroporto di Beijing, per esempio. Se vai sopra il 666, 6666, puoi accedere a prestiti fino a 50.000 yen senza avere grossi problemi. Sopra 700 puoi andare, questa boh, mi ha incuriosito, poi ti sarà permesso andare a Singapore senza un permesso perché non sapevo che per andare a Singapore dalla Cina devi avere un permesso fatto da chi? Dal tuo datore di lavoro o comunque da un ente finanziario comunque riconosciuto. Se ce n'hai più alto di 700 puoi andare a Singapore quando ti pare. E 750, che è altino su 900, ti verrà dato in maniera esclusiva una visa per viaggiare nei paesi di Schengen, per esempio. E ovviamente già da un anno che è cominciato questo esperimento, già ci sono, cioè chi è già partita la il pavoneggiarsi di alcuni utenti per il punteggio alto e cose del genere. Una cosa curiosa è che avrà anche effetto su fra le aziende che vi ho indicato prima, c'è anche il Tinder cinese, che quindi accoppierà le persone per farle conoscere, per farle uscire in base anche al punteggio. È una roba assurda. Ora, ci sono l'articolo che ho letto, è un po' riassunto, insomma, che mi ha dato tutte queste informazioni in maniera molto anche precisa. È un estratto da un pamphlet scritto da Rachel Botsman, il cui titolo è Who Can You Trust? How Technology Brought Us Together and Why It Might Divide Us Apart. Che è stato pubblicato un estratto, questo estratto che potete trovare su internet, su Wired, in versione americana di novembre 2017. E in questo articolo, poi, che vi invito a leggere perché è molto interessante, anche perché mette delle. Pone, dopo aver presentato un po' che cos'è questo SCS, pone delle questioni, ovviamente. La prima questione che pone è il fatto appunto di come. Ovviamente. Sono americani quelli che hanno scritto questo articolo, quindi c'è sempre un sottotesto da tenere presente in come dicono le cose, ovviamente. No, notano come questa sia effettivamente loro la chiamano Big Data Gamified, cioè resa gioco, una versione dei metodi di sorveglianza dei paesi comunisti, però gamificata, quindi in cui te, cittadino, ti infili volontariamente per avere dei bonus, però effettivamente poi ti controllano e guardano tutto quello che tu abbia mai fatto nella tua vita, tutte le tue cerche di amicizie e cose del genere, in cui tu volontariamente adesso, poi sarà appunto obbligatorio. Poi ci sono varie idee effettivamente, fra l'altro la prima che viene in mente, vabbè, allora nascerà sicuramente, appena sarà reso obbligatorio, nasceranno tipo dei black, dei mercati neri della reputazione, tipo comprarsi roba oppure cose del genere, oppure delle falsificazioni, cioè chi è al governo sarà trattato nello stesso modo, o forse ci saranno tipo i Panama Papers, i China Papers che usciranno a un certo punto, in cui c'è stata tutta una falsificazione dei dati. E appunto, per ora non sono previsti delle cioè, se scrivi qualcosa su un social network di negativo nei confronti del governo, ad ora non è previsto un declassamento. In realtà, però, poi andando a cercare, si legge che il 25 settembre del 2016 il governo cinese ha detto che ha varato una roba che si chiama Warning and Punishment Mechanism for Persons Subject to Enforcement for Trust Breaking, cioè per la rottura del sistema di fiducia. Ora, l'idea di base, il motivo per cui il governo cinese sta facendo questa cosa qui, fondamentalmente dice che è per contrastare il commercio illegale, l'economia sommersa, e per fare in modo che tutte le persone che sono fuori dal sistema creditizio e quindi dal controllo, anche dalla possibilità di controllo all'interno della Cina, siano obbligatoriamente parte del gioco, e quindi possono essere controllati. Cioè, adducono appunto il fatto che, ad esempio, il 63% delle merci contraffatte del mondo vengono dalla Cina, che fare affari in Cina è molto difficile perché non c'è un sistema che possa garantire la trasparenza, esatto. E queste sono le cose. In realtà questa è una tendenza che c'è già nell'area, se anche nel mondo occidentale, di fare. Cioè, ora è da 70 anni che, per esempio, le compagnie assicurative usano un sistema di punteggio creditizio per decidere quanto puoi avere, quanto è il rischio che tu sia insolvente, quindi sono cose già utilizzate in realtà, però fa paura, si può dire, direi, che sia così messo nero su bianco. In realtà alcuni, ora in questo articolo ne parla, alcuni blogger, insomma, cinesi, adducono il fatto che sia a questo punto sia quasi meglio avere nero su bianco il fatto che sei controllato, e poter vedere i risultati del controllo che il controllo ha su di te, più che, cioè, è meglio che non sapere, cioè sapere di essere controllati, ma non sapere come vengono usati o quali risultati ha sulla tua vita personale. Quindi adducono anche un po' questa cosa qui. Un'altra analisi che viene fuori dall'articolo è un'analisi fatta da un italiano che però insegna in università a Oxford, che è Luciano Floridi, che insegna filosofia e etica dell'informazione, che è molto carino. Poi penso anche di concludere questo approfondimento, se non c'è qualche domanda o roba del genere, in cui lui fondamentalmente dice che la nostra società diventa sempre più un'infosfera, cioè la nostra società è sempre più un misto fra esperienze fisiche e virtuali, e quindi lui dalla vita online e vita offline le unisce e crea questo termine che è on-life, che sarebbe un po' il trend verso cui stiamo andando, nel senso che una persona, un individuo, non è più un individuo fisico che basta, non è giudicato, diciamo, dalla società solo dalla sua vita reale, nel mondo reale, ma anche da tutto il sistema virtuale di cui anche volontariamente e involontariamente fa parte, parte dal profilo Facebook e va a tutto quello che è online. E lui la mette in corrispondenza con i grossi spostamenti decentralizzanti rispetto all'individuo che ci sono stati nella storia, che per lui sono stati tre, che sono state la rivoluzione copernicana, cioè ok, non siamo al centro dell'universo, la teoria della selezione naturale, ok, non è l'uomo, che la Terra è stata creata per l'uomo e quindi non siamo animali e tutto il resto, e la teoria di Freud che dice appunto che le nostre azioni sono guidate dall'inconscio, che noi non possiamo controllare, diciamo. E lui ha queste tre decentralizing shift, questi spostamenti decentralizzanti, ci affianca proprio questa, l'avvento della own life personality. E niente, questo è l'approfondimento finale, fatto molto velocemente, ma è interessante. Leggetevi l'articolo e potete trovarlo su internet. Quest'ultima parte di questa trasmissione di oggi andiamo a leggere per intero un articolo che è stato pubblicato alcuni giorni fa sul Mirror da un giornalista di nome Alan Selby, che è andato in incognito presso il magazzino Tilbury nell'Essex in Inghilterra per farsi assumere da Amazon. Ironicamente, fra l'altro, ha acquistato la telecamerina con cui ha filmato tutto quanto ha visto e fotografato proprio da Amazon, e noi andiamo a leggere questo articolo dove viene proposta quella che è la maniera in cui sono assunti i lavoratori ad Amazon. Tralasceremo le conclusioni finali, poiché non siamo completamente d'accordo, di Alan Selby. L'articolo comunque in lingua inglese si può integralmente ritrovare sul Mirror, che colpisce fra l'altro ancora di più, considerando che non ha certo, insomma, fama di essere un foglio, diciamo, rivoluzionario, e nonostante questo è dichiarata come assolutamente negativa la maniera di operare da parte di Amazon. Un'altra premessa, prima di tutto, era che Alan Selby è un maratoneta, un corridore che corre per maratone, e nonostante sia un giovane di 30 anni, allenatissimo, ha avuto egli stesso grandi difficoltà a soffrire, a sopportare i ritmi del lavoro ad Amazon. Leggiamo l'articolo. Sono solo in una gabbia chiusa a chiave, a 10 piedi dal mio collega più vicino. Un robot si avvicina all'ombra e spinge verso di me una torre di scaffali. Ho 9 secondi per afferrare e lavorare un articolo da spedire per l'imballaggio. L'obiettivo è 300 articoli all'ora, un'ora dopo l'altra, incessantemente. Mentre mi piego sul pavimento, devono tenere alta la mia testa per compiere un flusso infinito di ordini. Il mio corpo mi urla. Benvenuti nel piano di raccolta di Amazon. Qui, mentre le telecamere guardano ogni mia mossa, uno schermo di fronte a me offre costanti ricordi delle mie unità all'ora, esattamente quanto tempo è stato richiesto per ognuna. Questo è il più grande impianto europeo di imballaggio del gigante online, destinato a distribuire 1,2 milioni di articoli all'anno. In qualità di principale rivenditore del Regno Unito, ha fatturato l'anno scorso 7,3 miliardi di sterline. Ma questo successo ha un prezzo: lo stress quotidiano dei suoi lavoratori. Ho trascorso 5 settimane nel nuovissimo magazzino della ditta a Tilbury, nell'Essex, armato da una macchina fotografica segreta acquistato proprio sul sito web di Amazon. Ho trovato il personale addormentato in piedi, stanco di lavorare 55 ore a settimana. Quelli che non riuscivano a tenere il passo con gli obiettivi punitivi affrontavano il licenziamento, e alcuni che si sono piegati sotto lo sforzo hanno dovuto essere assistiti da squadre arrivate in ambulanza. È tutto molto diverso dai volti cantanti e sorridenti che riempiono le pubblicità natalizie di Amazon in TV. Il suo esercito di 24.000 elfi infelici viene pagato 7 pence per articolo, per confezionare e consegnare ogni merce in tutto il Regno Unito. Il mio ultimo passaggio è stato alcuni giorni fa, nel Black Friday, quando milioni di inglesi si sono collegati per aiutare Jeff Bezos, il fondatore, a guadagnare 1,8 miliardi di sterline in più durante la notte. Ma l'azienda è stata colpita da una serie di eventi scandalosi, sospingendo ulteriormente la nostra indagine segreta. In Italia e in Germania il personale ha scioperato, fra parentesi a potenza, molti articoli parlano di questo, lamentando una bassa retribuzione e condizioni di lavoro sfavorevoli. I dipendenti dei magazzini del Regno Unito hanno raccontato di dormire nelle tende sotto i ponti solo per arrivare al lavoro in orario. Le pause temporanee per il bagno, gli obiettivi impossibili, le condizioni di lavoro estenuanti e intollerabili sono fra i reclami più frequenti. Il personale è pagato meno del salario di sussistenza ed è emerso persino che i conducenti avevano subito multe per consegne anticipate. Quando gli esperti hanno avvertito che i lavoratori stanno affrontando un aumentato rischio di malattie mentali e fisiche, Amazon ha ripetutamente promesso di ripulire il suo stile di lavoro, ma una lavagna per i commenti del personale nello stabilimento suggerisce che questo è molto lontano. Ci sono state lamentele per i bagni sporchi e le pause ancora troppo brevi. Uno ha chiesto: perché non possiamo sederci quando è tranquillo e non occupato? Siamo esseri umani, non schiavi animali. Mi è stato detto dal lavoratore: mi aspettavo che tutto fosse moderno e alimentato dal robot qui, ma i miei occhi ora si sono spalancati. La mia stessa storia di come sono diventato un robot umano non poteva essere più oscura. I turni sono iniziati nell'oscurità alle 7:30 del mattino e si sono conclusi alle 6 del pomeriggio, molto tempo dopo che il sole era tramontato. L'impianto è senza luce naturale, è inondato da lampadine fluorescenti, notte e giorno non hanno significato. Molti degli orologi sono stati coperti con del nastro dai dipendenti, nel disperato tentativo di non ricordare quanto tempo manca alla fine del proprio turno. Ma il tempo regna ancora qui. Un nuovo pacchetto deve essere sigillato e pronto per partire ogni 30 secondi. Qualunque sia l'ora, migliaia di lavoratori corrono per raggiungere gli obiettivi fissati dai computer che controllano ogni loro mossa. Nelle mie 5 settimane ho visto il personale che lottava per raggiungere obiettivi impossibili, nella costante paura del licenziamento. 2 sole pause di mezz'ora sono state l'unica volta in cui sono tornato in piedi, ma era appena il tempo per necessario a correre in mensa e mangiare qualcosa per mantenere vive le mie energie. Il mio corpo doleva dappertutto e il mio fitness tracker mi ha mostrato che camminavo per almeno 10 miglia, più di 16 km, quasi tutti i giorni. Nonostante fossi un appassionato di maratona, lo sforzo fisico mi ha fatto venire le vertigini e temevo di poter avere una crisi seria se avessi continuato a spingere con la forza necessaria per raggiungere gli obiettivi assegnatimi. Un collega è stato portato in ospedale da un'ambulanza quando è crollato sul lavoro, dopo aver lottato per restare nonostante non si sentisse bene. Un'altra ambulanza è stata chiamata dopo che una ragazza ha subito un attacco di panico quando le è stato detto che, che lo straordinario significava che avrebbe dovuto lavorare fino a 55 ore settimanali per Natale. Uno dei miei colleghi mi ha detto: tutti soffrono. Sono stirato il bicipite femorale, ma ho dovuto continuare. Il mio amico ha trascorso solo 2 giorni liberi dopo aver danneggiato i legamenti del ginocchio. Con la mia macchina fotografica segreta ho documentato i colleghi che coglievano l'occasione per riposare un momento, i piedi doloranti quando i supervisori non potevano vederli. I meno fortunati sono stati sgridati dopo essere stati sorpresi a riprendere fiato. Alcuni, semplicemente, dormivano dove si trovavano. Il magazzino ha la dimensione di 11 campi da calcio. È così vasto che servono più di 5 minuti per andare in bagno, quasi un terzo di miglio, da alcune delle mie postazioni di lavoro, e anche di più quando quelli sul mio piano erano fuori uso, come spesso accadeva. Se fossi andato, il sistema avrebbe saputo che non ero rimasto attivo, quindi sarebbe scattata la pressione per mantenermi al posto. Per raggiungere il sito, chiamato LCY2, dopo il vicino aeroporto di London City, i lavoratori pagano 4 sterline al giorno di trattenuta in busta paga per un autobus da Londra. Alcuni sono dei disperati, che trascorrono 4 ore al giorno per fare avanti e indietro per un lavoro da 8,20 sterline l'ora. Uno che vuole trasferirsi in un posto vicino dello stabilimento mi ha detto: «I proprietari stanno aumentando gli affitti da quando il sito è stato aperto. L'unica stanza che riesco a trovare è a 600 sterline al mese. Porto a casa 200 sterline a settimana. Come posso permettermelo?» Nei giorni precedenti il Black Friday, gli obiettivi prestazionali mancati hanno comportato il licenziamento di decine di dipendenti. Una volta al giorno, un supervisore si avvicina per ricordarmi che la mia performance non è all'altezza. Spesso non lo faceva volentieri, ma gli operai vengono messi l'uno contro l'altro. Uno mi ha detto: «Finché non sei inferiore non hai bisogno di preoccuparti, per il momento». Una volta che un oggetto viene prelevato viaggia attraverso l'edificio per finire all'imballaggio, l'altro reparto in cui ho lavorato. Mi è stato detto di confezionare 120 singoli articoli l'ora, 85 articoli multipli, e mi è stato detto che presto il numero salirà a 200. Si possono vedere dipendenti camminare su e giù per i nastri trasportatori che fanno vibrare le casse per raccogliere ceste piene di oggetti più piccoli, per raggiungere la loro quota. Un collega ha detto: «La mia ragazza dice che anche le vecchie signore nei turni di notte hanno litigato per le scatole. Se ne ottieni una con un sacco di piccoli oggetti, risparmi tempo e tieni i tuoi numeri in alto e arrivi prima di tutti gli altri». A volte raggiungo i miei obiettivi, ma spesso mi rendevo conto che non avrei potuto continuare così a lungo. A metà del giorno mi sentivo svuotato. Se avessi borbottato mi sarebbe stato ricordato che i miei numeri avrebbero sofferto per un'eventuale fermata. Nelle ultime 2 settimane ci sono stati almeno 2 incidenti che avrebbero potuto ferire seriamente qualcuno. Il lavoro ripetitivo monotono, nel suo ironicamente chiamato centro di adempimento, non mi ha nemmeno favorito mentalmente. Nelle prime settimane ero depresso, finché il mio cervello non si è spento. Un collega mi ha detto: «Quando sono stato assunto qualcuno mi chiedeva perché il turnover del personale fosse così alto qui. Ecco perché, è perché stanno uccidendo le persone. Tutti i miei amici pensano che io sia morto, sono esausto». La sua osservazione riassumeva ciò che avevo visto con i miei occhi. Se parliamo di trattare il proprio personale come bestiame, Amazon ha sicuramente ancora molta strada da fare. Questo era l'articolo. Ricordo l'autore, Alan Selby, si ritrova sul The Mirror e le fotografie di cui si parla sono integralmente disponibili, sono liberamente disponibili su quel sito. Io le ho viste, invito anche chi ascolta a farlo, fanno decisamente impressione e mi sembra aiutino anche a ricordare quanto tutte queste ciance sulla web economy, insomma, alla fine sono fuffa, fin tanto che ogni salto tecnologico non fa altro che spostare l'ambito dello sfruttamento del lavoratore in un nuovo settore senza effettivamente liberarlo, dal momento che le macchine continuano a essere di proprietà di soggetti come il signor Amazon. Un altro punto che mi sembrava importante sottolineare è che tutto questo è legale e questi metodi di sfruttamento del personale sono non illegali, legalissimi, tanto in Inghilterra quanto in Germania quanto in Italia. Amazon non viola le leggi sul diritto al lavoro, il che è ancora più agghiacciante perché noi pensiamo comunque che non tutto ciò che è legale sia giusto, come è ovvio. E siamo giunti invece al gong finale di questa prima rassegna stampa di Radio Wombat. Vi ricordiamo che il lunedì, appunto, da mezzogiorno circa a l'1:30 c'è la diretta di questa rassegna stampa di Radio Wombat, mentre il mercoledì e il venerdì, nelle ore di pasti, quindi sempre a mezzogiorno e alle 19, ci saranno le repliche. Comunque potrete trovare tutto sul sito da cui ci state ascoltando, andando nella sezione palinsesto, potrete trovare i podcast da rigirare e da condividere appunto sui social. E non ci resta... tra 4 minuti invece troverete la diretta di Passaggio a Nord-Ovest, di Senza Frontiere, scusate, a seguire alle 14.30 Passaggio a Nord-Ovest, alle 15.30 Passaggio a Nord-Ovest Stampa, Stampa Rassegnata appunto, mentre alle 16.30 Fuoco alle Polveri, la sera in diretta, e la sera sempre in diretta alle 21 Coccoli al Silicio. Non sentirete sempre le solite voci all'interno di questa rassegna stampa, perché c'è una redazione allargata di tutti i wombati che partecipano alla realizzazione di questa radio indipendente. Ci sentiamo quindi lunedì prossimo, ma se volete sentirci vi ricordo mercoledì e venerdì alle 12 o alle 19. Wombat Wombat. Poiché non può desistere dal vilipendere la corte, ordino allo sceriffo di legare.